Confesso la mia, diciamo, impreparazione a accompagnare un dibattito sul libro perché non è di solito quello che faccio. Proprio per È questo. proprio per questo, esatto. Anche se leggendolo capisco cosa la vicenda ex IGKN possa centrare in un libro del genere, ma non direi di non partire da questo. Parto dalla mia personale non recensione. Tanta roba, tantissima roba. Lo dicevo prima, un libro a tratti onirico, a tratti documentale, con una quantità di sottotrame, tre momenti storici diversi, dentro al quale poi ci sono altre varie sottotrame. E chiaramente parlare di un libro senza parlare troppo della trama del libro e lasciare che ognuno poi se lo legga non è facile. E per cui la prima domanda banalmente è: da dove nasce l'idea in particolare di questo libro? Poi magari ci tornerò dopo invece su che cosa qualcuno che ha vissuto la vicenda del collettivo di fabbrica ex IGKN vede in questo libro. Cioè, sono tante cose, però specificatamente c'è proprio questa descrizione del soffio mortale e mortalmente creativo del capitale su una comunità in vari momenti storici. Il capitale che decide quando arrivare a sgombrare, il capitale che decide quando arrivare a ricostruire, ovviamente con la sua narrazione, e sempre in terre disabitate per il capitale, dove in teoria non c'è nessuno, in realtà dove abitano delle comunità, con tutti i loro riti, con tutta la loro vita di comunità, con tutta la loro storia, che diventa una storia fantasma, perché ovviamente quando poi il capitale vince non racconta la storia delle comunità che ha cancellato sia quando costruisce, cioè quando arriva per esempio nell'Ottocento a industrializzare zone dove c'erano delle comunità prima, sia quando poi si ritrae distruggendo le comunità che nel frattempo si sono ricostruite attorno alla fabbrica, perché attorno alla fabbrica poi si ricostruiscono le comunità, il capitale a un certo punto decide che la fabbrica non ci deve essere più, le distrugge, ogni volta lascia abbandono. Meglio quello che per il capitale abbandono, nell'abbandono la vita riprende in qualche modo, prova a ritornare e a quel punto, quasi come se il capitale non tollerasse che si crei qualcosa al suo posto, ritorna di nuovo con promesse di progresso che quasi mai sono di progresso. Questa è la vicenda che in maniera un pochino più chiara uno che ha vissuto la vicenda ex IGKN rivede in questo libro, che però non è soltanto quello. Però ecco, prima di parlare del libro, penso che magari due parole sulla Genesi. Un giorno uno si alza la mattina e dice: scriverò un libro proprio su questo. Sì, grazie, grazie intanto. Chissà se si sente. Si sente? No? Sì? Ok, bene. Grazie intanto a Dario e grazie a tutte e a tutti per essere qui. Scusate il ritardo, che come detto, insomma, è dovuto a motivi non dipendenti dalla nostra volontà, come si dice. E, sì, allora, l'idea del libro nasce proprio dall'intenzione di raccontare l'attitudine colonialista del capitalismo, e nasce dalla insoddisfazione, dalla sensazione che nella letteratura italiana, nei libri che si vedono in libreria, negli ultimi tempi ci siano tanti testi che incensano questa attitudine, tanti testi celebrativi di dinastie di imprenditori, con ottime idee, i quali non sono riusciti magari a realizzare tutto quello che avrebbero voluto e quindi a diventare, diciamo, una borghesia imprenditoriale vincente piuttosto che fallimentare per questioni di destini, questioni di malasorte, per inciampi, ma che chissà, forse se avessero avuto un destino diverso lo sarebbero potuto diventare. Un tipo di letteratura dove molto spesso c'è il conflitto, perché insomma, narrativa, romanzi senza conflitto non si possono fare, questa è una delle regole base, insomma, no? Però c'è un conflitto che quasi sempre è interno a queste dinastie, alla maniera di Dynasty, appunto, no? Non so se vi ricordate. quella serie che si vedeva con J.R. quando io ero ragazzino, quindi qualcuno se la ricorderà, qualcun altro non l'avrà vista. E tutte le questioni, diciamo, erano interne a una dinastia di ricchi imprenditori. E quindi riguardavano l'eredità, riguardavano la proprietà, riguardavano il chi si tiene che cosa, riguardavano gelosie, invidie, matrimoni, scambi, eccetera. E quasi mai riguardano invece il conflitto fondamentale che appunto un capitalismo colonialista, come è sempre, pone, cioè quello dei luoghi dove cala i suoi progetti. Delle persone sulle quali cala i suoi progetti, che in qualche modo mette a servizio dei suoi progetti, questa dimensione non c'è quasi mai. Diciamo, la lotta di classe, è ben poco raccontata in questo tipo di romanzi, che hanno una loro epica, che hanno un loro afflato anche interessante, spesso attraversano, decenni di storia italiana e lo fanno, comunque inquadrandola dal punto di vista. Diciamo appunto di fabbriche, di imprese, di stabilimenti industriali, quindi da un punto di vista potenzialmente anche molto interessante, ma eliminando questo tipo di conflitto che è il conflitto centrale, insomma, no? Che questa epica invece dovrebbe inquadrare. Quindi sfogliandoli, alcuni leggendoli, alcuni sono meglio di altri di questi libri, no? Come spesso accade nell'editoria quando gli editori sentono di aver azzeccato un filone, che un filone fa vendere delle copie dei libri, poi comincia la produzione seriale, no? Un po' come nella storia dell'industrializzazione. E a un certo punto si comincia a usare lo stampino. Quindi alcuni dei primi libri che sono usciti all'interno di questo filone, di questo genere, sono anche piuttosto interessanti, altri si vede che seguono uno schema, hanno una certa, un certo stampo e semplicemente viene applicato prendendo una volta i Menabrea, una volta i Lindt, una volta i Crespi, ogni volta una dinastia industriale diversa. Quindi, diciamo, un primo stimolo era questo fastidio, insomma, e l'idea di provare a raccontare invece anche l'altro pezzo, il pezzo mancante. E mi è sembrato che un villaggio industriale, un villaggio operaio creato dal niente, una fabbrica costruita in un luogo dove prima appunto le mappe dicevano non abitare nessuno, potesse essere un buon caso di studio. Non quindi una fabbrica costruita vicino a una metropoli o ai margini di una metropoli, quindi anche con una forza lavoro in qualche modo già disponibile, magari già abituata all'industria, già abituata ai ritmi della fabbrica. Mi sembrava più interessante far vedere appunto come un imprenditore che tra l'altro si ritiene pure illuminato, cioè ha dalla sua una narrazione, no, molto particolare di quello che ritiene di essere un benefattore, che ritiene di seguire il Vangelo, un intellettuale, è un imprenditore di cultura cattolica, no? E quindi che vuole fare il bene del suo prossimo. Che cosa succede quando, dovendo costruire una fabbrica che ha bisogno d'acqua come forza motrice, anche come ingrediente chimico, perché la fabbrica è una cartiera, ha bisogno poi di raccogliere forza lavoro in un luogo dove la forza lavoro non c'è. Quindi di fare veramente un progetto colonialista come poteva essere appunto il colonialismo europeo di fine 800, che andava a insediarsi in luoghi, a portare in quei luoghi un tipo di lavoro che nessuno conosceva, no? Che fosse agricolo o che fosse industriale. Mi sembrava interessante perché questa prospettiva avrebbe messo in evidenza come da un lato ci fosse il racconto dell'imprenditore che appunto, no, riteneva di essere quello che fa le case per i suoi operai, costruisce il posto dove abiteranno, fa delle case più dignitose rispetto a quelle che magari hanno nella campagna, gli mette a disposizione il dopolavoro, gli mette a disposizione una scuola, gli mette a disposizione uno spaccio, insomma, per alimentari, ed è convinto di essere un demiurgo di qualcosa di utopico, di ideale, di seguire un piano che lo porterà a fare del bene, e dall'altra parte, appunto, invece, delle persone che fino a quel momento vivevano sparse per la campagna, erano fittavoli, erano mezzadri, erano braccianti, e pian piano si ritrovano invece ad essere lavoratori di questa fabbrica e a lavorare in un contesto che non hanno mai conosciuto, che per loro è nuovo. E si rendono conto che sotto a quella proposta di utopia, di un modo di abitare nuovo, in realtà ci sono gli interessi del padrone. C'è l'interesse ad avere una forza lavoro disponibile a poca distanza dalla fabbrica, c'è l'interesse a disciplinarla, l'obiettivo di disciplinarla, no? Di abituarla a vivere secondo il tempo della fabbrica, ma non soltanto in fabbrica, sempre. C'è un progetto totalitario. A me è sembrato molto interessante il fatto che appunto i primi esperimenti di questo tipo di villaggi in Italia siano negli ultimi decenni dell'Ottocento e in un qualche modo per alcuni aspetti sono delle anticipazioni di fascismo, sono delle anticipazioni di regime, perché l'idea di controllare ogni aspetto della vita delle persone è già lì, esiste, proprio perché il villaggio, se ne rendono conto pian piano quelli che ci andranno ad abitare, proprio perché il villaggio in realtà è un ingranaggio della fabbrica, è parte della fabbrica, è fuori, ma in realtà è dentro. Come la fabbrica produce carta, così il villaggio deve produrre operai per la fabbrica. Sì, è vero, l'imprenditore mette a disposizione la scuola, l'istruzione, chiama una maestra, ma quella scuola pian piano ci si rende conto che non ha l'obiettivo di formare persone libere, pensanti, autonome, indipendenti, ma ha l'obiettivo di formare capi reparto, operai semplici, operai scelti, dirigenti, cioè comunque di lavorare per la fabbrica, di sfornare merce, materiale, umano per la fabbrica. E quindi ecco, questa è una prima suggestione. Poi diciamo la decisione definitiva l'ho presa visitando uno di questi villaggi, dopo sono andato a conoscerne anche altri, ma il primo che ho visto è Crespi d'Adda, che si trova sulla riva bergamasca dell'Adda, è stato fondato appunto negli anni 60 dell'Ottocento dalla famiglia Crespi, quella che poi arriverà a possedere il Corriere della Sera, che sarà tra le finanziatrici dell'autodromo di Monza, insomma una grande famiglia imprenditoriale italiana. Viene fondato Crespi d'Adda a servizio di un cotonificio, quindi lì non c'è una cartiera, c'è una industria tessile che ha bisogno dell'acqua per far girare i telai, almeno nell'Ottocento, e che ha bisogno appunto di una forza lavoro disponibile, andandola a raggranellare nella campagna bergamasca. Quando io sono stato a Crespi d'Adda, che adesso è un luogo turistico e che è diventato sito UNESCO nel 95, quando ancora la fabbrica funzionava e quando ancora era l'unico villaggio industriale operaio europeo dove la fabbrica ancora funzionasse, quindi diciamo che aveva una caratteristica unica nel suo genere, quando io ci sono andato ho subito avvertito questo aspetto contraddittorio, no? Cioè da una parte tu, percorrendo quelle strade, senti di trovarti in un luogo che è stato pianificato secondo un'idea, no? Quindi per certi versi un villaggio ideale, per certi versi un villaggio utopico, chiaro, l'utopia di una persona sola, l'utopia di una sola famiglia, non l'utopia di una collettività, no? O comunque soltanto in parte, sì, ce l'hai quella sensazione, ma dall'altra parte hai anche la sensazione di essere invece in un luogo di controllo, in un luogo dove l'ordine delle strade, l'ordine dei giardini, l'ordine delle case, non è soltanto un ordine pensato per abitare meglio, con più facilmente, ma è anche un ordine pensato per essere imposto sulla vita delle persone, cioè ti dà l'impressione dell'istituzione totale, cioè ti sembra di essere comunque senti quell'inquietudine della prigione a cielo aperto, del luogo di concentrazione di esseri umani secondo appunto un piano determinato che però ti comincia a sembrare meno ideale. E poi c'è un aspetto che dopo ha influenzato molto la stesura del libro, che è che Crispidada è pieno di simboli. E questo non te lo aspetteresti, no? Cioè, o meglio, te lo aspetteresti, ma in un altro modo, nel senso che non è soltanto un luogo funzionale, no? La fabbrica, con i capannoni costruiti per contenere i telai, poi altri per fare la tintura, poi altri per fare il taglio e tutte le varie fasi della produzione. Le architetture della fabbrica sono piene di simbologie, di elementi che non hanno una funzione diretta, che non ti spieghi, che anzi per certi versi sono anche spreco, no? Nel senso che in una fabbrica ti aspetteresti che se devi fare una finestra, fai una finestra rettangolare, quella più facile possibile, dove insomma devi spendere meno lavoro possibile perché il lavoro che ti interessa è un altro, no? Ed è in fondo il modello dei capannoni che conosciamo oggi. Invece, la famiglia Crespi, aveva concepito la fabbrica di fianco al villaggio come se fosse la cattedrale del villaggio. E quindi la riempita di elementi, certe finestre sono tonde, hanno tutte delle cornici particolari, ci sono simboli vagamente massonici, dopo scopri che sì, il signor Crespi probabilmente era affiliato, era un fratello della massoneria, e anche il villaggio ha tutta una sua simbologia. La chiesa è in un posto, la villa del padrone, che è una specie di castello, è in un posto, e poi arrivi al cimitero. E lì veramente rimani a bocca aperta, perché davanti al tu arrivi al cancello di Crespidada, del cimitero di Crespidada, e sei di fronte a una specie di tempio pagano, sembra uno ziggurat babilonese, no? Di quelle piramidi che facevano i sumeri, e quello lì è il mausoleo della famiglia Crespi. E tutto intorno, piccoline, disposte secondo l'ordine gerarchico della fabbrica, ci sono le tombe degli operai, ci sono le croci, gli operai semplici hanno delle croci più semplici, gli operai scelti hanno delle croci più scelte, i capi reparto sono un po' più vicini al mausoleo dei mensa e tutto è organizzato così, no? E allora ti viene in mente davvero che il capitalismo è anche un sortilegio, è anche una strana magia, no? Che produce appunto un incantamento, un incantesimo. E, ecco, queste inquietudini qui sono un po' alla base poi dopo mi sono detto, beh, studiamola meglio questa questione, questo posto. Ho trovato tanti elementi, ma ne ho trovati altri in altri villaggi operai, e quindi alla fine ho pensato, vabbè, condensiamo tutto in un villaggio operaio inventato come Mensaleri, in modo tale che ci posso mettere un po' gli ingredienti che mi interessano di più. Grazie mille. Io continuo questo imbarazzo di parlare di un libro senza poter parlare troppo del contenuto del libro. Ci sono alcune cose che colpiscono. Beh, l'ho già detto, dal punto di vista della scrittura è impressionante, veramente troverete una quantità di trame, sottotrame, anche di stili diversi improvvisamente a seconda di che cosa si parla. Il libro fondamentalmente ha tre momenti storici, cosa si può dire, non sto Sì. rivelando nulla. Uno proprio l'albore, diciamo, medievale della comunità su cui si costruiscono miti, storie, eccetera. La prima industrializzazione, che è quella che hai descritto un pochino di più, e poi dopo la deindustrializzazione, la promessa di un ritorno di industrializzazione, con tra l'altro, così si sente meglio, con tra l'altro questa caratteristica che i Crespi d'Adda e quel tipo di industrializzazione colonizzava, distruggeva e contemporaneamente aveva anche una potenza creativa rassicurante, nel senso che una volta che tu avevi accettato una sorta di contratto sociale per cui il padrone era il padrone e tu eri dentro quel meccanismo, avevi comunque di fronte a te un periodo di stabilizzazione per cui quello era il paese, quelle erano le case, quella era la fabbrica. La nuova reindustrializzazione contiene tutto il sortilegio del capitale, quindi l'uomo solo al comando, il progetto, eccetera, ma in realtà senza nulla di tutto questo, cioè quindi ancora peggio, cioè nel senso che è la forza ideologica senza nemmeno più una forza materiale, perché comunque l'industrializzazione ottocentesca porta tutto quello che viene descritto, la gerarchia, il padrone, la sua simbologia, la sua ideologia, ma è un'ideologia che poggia anche sul fatto che comunque per decenni quel territorio sarà devastato, ma sarà devastato nel lavoro, nel contratto sociale, nella stabilità, nel villaggio apparentemente rassicurante, nei caseggiati fatti attorno alla fabbrica. Invece la nuova reindustrializzazione non è niente di tutto questo, è solo farsa. È solo farsa, è solo ideologia, ed è questa un po', credo, anche la caratteristica del nostro tempo, che del capitale rimane veramente soltanto l'ideologia senza nemmeno più la forza materiale per imporsi. Cioè, noi spesso nel nostro rapporto col capitale veniamo accusati di essere noi quelli ideologici. In realtà non c'è niente di più ideologico, nel senso deleterio del termine, perché nel senso nobile non c'è nulla di male ad avere un'ideologia basata su una visione scientifica della realtà. Il capitale è ciò che c'è di più ideologico oggi. Se ci pensate, noi oggi abbiamo un governo che fondamentalmente che cosa vende agli oppressi di questa società? Ideologia, dalla mattina alla sera, attraverso i social, attraverso le boutade. Non è che ha da portare una qualche forma di finanziaria, di contratto sociale, dove tu pensi che comunque accettando un pezzo dell'ideologia del capitale guadagnerai qualcosa. Ricevi in cambio soltanto ideologia a tutti i livelli. E in tutto questo, appunto, il contrasto tra capitale individuale, fatto di individui con tutti i loro sortilegi, sono dei maghi, eccetera, delle scelte individuali, e la comunità è qualcosa che torna sempre. E torna anche una sorta di concetto di spiritualismo dal basso, mi sembra di poter dire. Cioè, nell'idea, che forse abbiamo anche un po' introiettato noi, no? Capitalistica, c'è questa idea per cui comunque la ricerca della verità è qualcosa che deve arrivare dall'alto verso il basso, fatto da circoli chiusi, ristretti di individui che trovano la via, che scoprono come. In realtà, poi alla fine la vita comunitaria trova sempre il modo per darsi delle spiegazioni, dei riti, anche un'economia alternativa a quella capitalistica, no? Magari più legata alle caratteristiche naturali del territorio rispetto appunto all'arrivo del capitalismo. E mi ha colpito molto questa contraddizione, cioè non c'è soltanto una contraddizione tra l'individuo capitalistico e la comunità che di volta in volta viene sconvolta dall'arrivo del colonialismo capitalista che la sconvolge, la sgombra, la violenta, e dopodiché però la comunità trova un modo per reagire, per riorganizzarsi, ma anche questa cosa per cui ci sono due forme di spiritualismo in qualche modo. E questo è qualcosa anche di piuttosto raro, perché noi siamo sempre abituati a un tipo di contrasto al capitalismo puramente razionale e scientifico, il che va bene, però tante volte sottovalutiamo quanto in questo scontro del capitale noi possiamo anche essere, non mi viene il termine, non credo il termine sia eredi, qualcuno che raccoglie anche una consapevolezza, una conoscenza di comunità che si è creata negli anni, che non per forza dobbiamo accettare, no? Nei suoi riti, che però fondamentalmente è anticapitalistica, non so come dire. Questa è una cosa che appunto non so da che cosa, anche qua, dove è nata questa idea particolare. Sì, allora, tante cose. Dunque, intanto accenno brevemente al fatto che sì, anche in Mensaleri c'è una fabbrica che viene chiusa, c'è una fabbrica che viene chiusa nel momento in cui in realtà ha commesse, ha lavoro, ha clienti, è la cartiera mensa, detta Carmen, ha un nome di donna, un soprannome quantomeno. E Carmini e Carmele vengono chiamati i lavoratori e le lavoratrici. Chiude negli anni 90 del Novecento, chiude nel 92, periodo di crisi di diverse cartiere. Chiude appunto semplicemente perché, da un lato, il padrone, l'imprenditore a cui è stata venduta, non è più dei Mensa. I Mensa vendono tutto, se ne vanno, appunto, abbandonano dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50, quindi negli anni 90. la fabbrica è passata diverse volte di mano, con la sensazione di un progressivo declino, almeno nel ricordo delle persone del villaggio, che sempre di più finiscono per mitizzare l'età dell'oro in cui c'erano i Mensa, arriva nelle mani di uno che fa investimenti sbagliati, si fa prestare soldi che poi usa per il suo tornaconto, e soprattutto la fabbrica, una volta che finisce in mano alle banche, che la comprano appunto da costui, le banche decidono che conviene andarsene in Romania, dove si può inquinare di più senza preoccuparsi troppo, le regole sono più lasche, dove la forza lavoro costa meno, la cellulosa costa meno, il legno costa meno, i ricavi saranno maggiori. Quindi diciamo questo è il progetto di deindustrializzazione di cui parlava Dario a Mensaleri. Scioperi, presidi, tentativi di non farsi portare via le macchine, di mantenere la fabbrica lì dov'è, ma a un certo punto chiusura della fabbrica, tanto appunto la fabbrica ormai è delle banche e alle banche non è che interessino più di tanto gli scioperi. Però nel 95 si presenta un rampollo della famiglia Mensa, tornano quelli col cognome legato all'età dell'oro, e si presenta con un piano di rigenerazione del sito industriale. La fabbrica era la cattedrale del villaggio e quindi le sue architetture sono pregevoli, se ne può estrarre valore. E il suo piano è la ricetta che un po' negli anni 90 andava sempre per questo genere di operazioni. Una ricetta calata dall'alto, sempre uguale, diciamo, no? Quindi facciamo un hotel a 4 stelle, facciamo un ristorante stellato, facciamo un museo della carta, perché comunque sì, grazie agli operai che non se le sono fatte portare via, ci sono ancora delle macchine anche molto, molto antiche. Facciamo, per mistificare un po', no? Per metterci una foglia di fico verde, un laboratorio d'eccellenza, perché quello che tirava allora era l'eccellenza, no? Dovevi metterci sempre un laboratorio d'eccellenza per lo studio del riciclo della carta, così comunque manteniamo un po', no, questo legame, per far vedere che appunto la ricetta non è insensibile al posto dove arriva, no? Qualcosa concede, lì c'era una cartiera, facciamo la carta, studiamo la carta riciclata, studiamo la riduzione dell'inquinamento da Palper, dagli scarti delle cartiere, e poi facciamo pure un laboratorio teatrale. Per inaugurare questa seconda età dell'oro, dopo la prima età dell'oro dei Mensa, questa seconda età dell'oro di nuovo inaugurata da un Mensa, questo imprenditore, che è un imprenditore della moda, chiama una regista teatrale e le dice di raccogliere le storie, le leggende, le vicende, i documenti, le testimonianze del villaggio, soprattutto relative appunto a quando c'erano i suoi antenati, i suoi avi, e di fare uno spettacolo con la gente di Mensaleri. Una quindicina di persone che vengono scelte, mandano un questionario, si ritrovano. Quindi ecco che c'è quest'altro piano temporale, insomma, no? Nel romanzo c'è anche tutta una vicenda che si svolge nel 1995, ed è raccontata in parte da una prima persona plurale, è appunto un noi collettivo, noi che facciamo il laboratorio teatrale, noi che stiamo scoprendo questo e quest'altro, noi che ci poniamo il problema di come mettere in scena queste storie. E pian piano il teatro, il laboratorio, va a toccare quei fantasmi di cui parlava Dario prima, cioè tutte quelle vicende che l'ideologia del padrone, che la mistificazione del conflitto, che il colonialismo, che i sortilegi hanno nascosto, storie censurate, storie dimenticate, strappi, cicatrici, fantasmi. Spesso sono storie che ruotano intorno a figure femminili e che quindi non a caso sono state messe ai margini, dimenticati. Le cartiere già nell'Ottocento avevano almeno un terzo della forza lavoro che era femminile, no? Soprattutto quelle come la cartiera mensa, che iniziano a produrre carta dagli stracci, avevano tutta la sezione, diciamo, delle stracciarole, che era, cioè della selezione degli stracci, della preparazione degli stracci per fare la carta, che era, di lavoro femminile, e anche in parte tutta la sezione dell'allestimento, cioè, il taglio dei fogli di carta. Eppure queste storie sono state, cancellate. In parte sono state cancellate anche da questa nostalgia che ha cominciato a stendersi sul villaggio nel momento in cui la fabbrica è stata chiusa. Io questo un po' l'ho notato, no? Nell'andare in giro per alcuni villaggi operai che, come vi dicevo prima, ormai sono tutti legati a fabbriche che non ci sono più. Quando queste fabbriche non hanno chiuso negli anni 30, negli anni 20, ma magari negli anni 60, 70, quindi c'è qualcuno che ancora si ricorda quando la fabbrica funzionava, c'è sempre un elemento di nostalgia rispetto a quel tempo e quindi anche di ricordo edulcorato, no? Di mitizzazione, no? Perché, certo, rispetto al momento in cui magari la fabbrica è stata chiusa, lasciata vuota, abbandonata, e non si è riusciti a farla ripartire, molte persone hanno perso il lavoro, hanno dovuto ricollocarsi, hanno fatto periodi di cassa integrazione, sono state licenziate, hanno perso il loro ambito lavorativo, quello dove poi, per esempio nel caso di una cartiera, hai acquisito una competenza anche notevole, beh, inevitabilmente, no? Quel tempo è ricordato con nostalgia e questa nostalgia un po' si trascina dietro tutto, cioè è appunto come se quel tempo là, il tempo in cui si lavorava, diventasse per forza di cose, leggendario, buono, mitico, ideale, no? Popolato da figure, per le quali si può provare soltanto, nostalgia, appunto, rammarico perché non ci sono più. E, invece, a Mensa Leri, il laboratorio di teatro, rimettendo in moto queste storie dimenticate, riportandole in scena, dando un corpo a queste storie, comincia a renderle più dirompenti. Insomma, non sono più soltanto buchi, cicatrici, fantasmi, oppure non sono più soltanto parole ripetute sempre nello stesso modo. Sapete, chiunque si sia confrontato con la memoria di una comunità avrà notato che alcune vicende finiscono per essere raccontate e ripetute quasi sempre con le stesse parole, no? Soprattutto dagli stessi testimoni che ormai quasi, hanno il loro pezzo, no? Cioè è come se fosse il loro repertorio, no? E quella storia te la raccontano sempre nello stesso modo. Nel momento in cui dalle parole passi alla scena, dalle parole passi ai corpi, dal racconto passi al teatro, queste storie cominciano a fare un effetto diverso. E c'è pian piano una presa di coscienza, non dico oltre. E poi c'è una terza voce, come si diceva, che invece è un io narrante, perché la regista si porta dietro la figlia di 15 anni. Se la porta dietro perché è una che, lasciata da sola in città, combina casini. Quindi un po' a metà tra il controllo e la punizione, quando va a lavorare nei fine settimana a Mensa Leri, ogni 15 giorni c'è una sezione del laboratorio, la porta a Mensa Leri con sé. All'inizio, chiaramente, questa ragazzina è molto indispettita dalla prospettiva di andare a passare il fine settimana in quello che lei considera un buco, e che effettivamente poi lo è, perché appunto è un villaggio operaio costruito in mezzo al niente. Poi troverà i motivi per chiedere di tornare. Troverà che in realtà la peggio gioventù del paese fa delle cose interessanti e quindi, si unirà a costoro e avrà una parte, diciamo, nella vicenda. Vengo alla questione dello spiritualismo in qualche modo, cioè di questo elemento magico, fantastico, che io appunto, come vi dicevo, ho avvertito nei simboli di Crespi d'Adda, ma poi mi è sembrato che appunto potesse essere un ingrediente originale, particolare, dentro a una storia di fabbrica, dentro a una storia di imprenditori e lavoratori, perché appunto molto spesso in una storia del genere la dimensione fantastica, la dimensione onirica, sembra che non abbia spazio. Mi è piaciuto, così come appunto il villaggio viene costruito da zero, la fabbrica viene costruita da zero, mi piaceva prendere una comunità che non ha già un'abitudine alle lotte, cioè che non ha già delle risorse per opporsi alla forza del capitale. Se il villaggio operaio fosse stato costruito nelle campagne della mia regione, per esempio, che conosco bene, sicuramente avrebbe trovato già un movimento bracciantile, già dei mezzadri, dei fittavoli vagamente politicizzati, che magari hanno sentito parlare di socialismo o di anarchia, di scioperi. Mi interessava invece prendere una comunità che queste cose non le ha sperimentate, no? Perché di solito nei nostri libri, dove sempre ci sono protagoniste delle comunità, dei gruppi di persone, dei collettivi, però molto spesso questi gruppi umani sono già, diciamo, ribelli, sono già attrezzati. A me interessava prendere, come del resto è successo a Crespi d'Adda, perché i contadini della Bergamasca non erano così, così rivoltosi, no? Era gente che già aveva un tallone sul collo, che era spesso quello del parroco, della chiesa, no? E quindi mi sono chiesto, una comunità del genere a che cosa si rivolge? Quali risorse pesca per trovare appunto uno spazio diverso da quello della fabbrica, soprattutto nel momento in cui anche il suo spazio di vita fuori dalla fabbrica è della fabbrica, cioè nel momento in cui è una comunità di un villaggio operaio dove tutto vive al tempo della fabbrica e tutti gli altri tempi sono stati cancellati, no? C'è una cronodiversità che è stata spazzata via da un unico tempo, il tempo delle sirene della fabbrica, del momento in cui puoi andare in osteria, ma l'osteria è l'osteria del padrone, ti servono il vino come ha deciso il padrone, un bicchiere soltanto al giorno per evitare che poi, insomma, presuntamente per evitare l'alcolismo, ma in realtà per evitare le conseguenze del bere insieme, che i mensa temono molto di più che non i problemi dell'alcolismo, uno spaccio dove spendi una moneta che vale solo a Crespi d'Adda, no? Anche questo è un meccanismo perfetto, premi e bonus, diremmo oggi, il welfare aziendale, diremmo oggi, in parte era fornito dagli imprenditori in denaro che si poteva spendere soltanto nello spaccio del paese, che era dell'imprenditore, quindi con una mano dai e con l'altra prendi. Beh, insomma, mi sono chiesto da che parte si sarebbero rivolti e ho pensato che appunto un culto popolare, un elemento religioso ai limiti dell'eresia, collegato con questa apparizione della Madonna che c'è a un certo punto, che però è una Madonna che ai preti non piace, è un'apparizione alla quale la Chiesa non dà il suo avallo, perché questa Madonna dice da subito che, insomma, sì, non è la sempre Vergine Maria, perché sì, era vergine quando ha concepito Gesù, ma poi ha fatto tanti altri figli insieme a Giuseppe, no? Anche il Vangelo dice che Gesù aveva dei fratelli e quindi non è rimasta vergine, già questo, insomma, no? Mette i preti un po' in ambasce. Ecco, ho pensato che questo tipo di culto qua, con i suoi riti, grazie al rito, avrebbe creato uno strumento per uscire dal tempo della fabbrica. E infatti la comunità, la piccola comunità all'interno di Mensaleri, che si ritrova per celebrare questa specie di eucarestia con il latte della Madonna, perché è una Madonna del latte quella che è apparsa, una Madonna che allatta Gesù, all'interno di questo rito trova i tempi anche per parlarsi, confrontarsi. Cioè, sì, prima pregano insieme, fanno tutti i gesti di un rituale, ma poi, già che sono lì, già che si sono trovati in un posto un po' fuori dal villaggio, già che hanno condiviso uno spazio e un tempo che appunto non sono in mano al padrone, che sfuggono al suo controllo, beh, cominciano a parlare anche d'altro, non solo le preghiere, no? Cominciano a confrontarsi. E poi da lì nascerà il germe di qualcosa di ulteriore. Da lì nasceranno i germi di una cellula anarchica a un certo punto, insomma, e sicuramente in questo mi ha dato una mano un libro di Erika Lagalisse, che è una studiosa, diciamo, delle origini del pensiero anarchico, per esempio, dove lei rintraccia tutte le radici occulte dell'anarchismo, no? Tutte le radici magiche anche, si chiama anarco-occultismo, infatti, è uscito per Die Editore anche in italiano. E niente, quindi mi sono divertito a cercare di tracciare questi legami e a opporre una magia di comunità alla magia invece individuale di cui si serve mensa. Qui non è spoiler, diciamo, perché succede molto Finché non dici tu, presto. io sono Sì, tranquillo. infatti. Finché non racconti tu, io. No, non è spoiler, succede molto in fretta che Mensa si trova come consulente un mago, un cartomante. Uno che gli fa le carte una sera in osteria, ci prende e da lì in poi diventa il suo inseparabile braccio destro. Però, ecco, questa contrapposizione individuo-comunità, no? Da una parte quindi c'è l'imprenditore, sono sempre primogeniti, è sempre un passaggio, diciamo, di padre in figlio, è sempre una patrilinearità che consegna la fabbrica all'erede, e che ha come braccio destro un mago, un unico individuo, anche lui maschio, anche i maghi faranno una dinastia, al quale chiede di prevedere il futuro. Cioè, questo è un cartomante, ma non è che Mensa vuole l'interpretazione dei tarocchi come la potremmo trovare in un libro di Jodorowsky, no? Cioè, quei tarocchi che posso farmi anche a me stesso e poi in qualche modo mi confronto con quei simboli e mi faccio delle domande e mi interrogo su di me, no? Conoscendomi, e mi aiutano magari a conoscere delle cose. Quelli no. Mensa è uno che vuole la produzione, quindi Mensa applica la logica della fabbrica anche alla magia e d'altra parte applica la logica della magia alla fabbrica per altri versi, appunto con i suoi sortilegi capitalisti. No, anche il mago deve essere uno che dà risultati, non può mettersi lì a interpretare, fare della poesia, no. Domani cosa succederà? Questo o questo? Devo fare questo o questo investimento? Poi mi sono accorto che in giro per la rete ci sono un sacco di siti di astrologia finanziaria. Cioè, questa roba qui esiste. Cioè, io me l'ero inventata, ma dicevo, No, guarda, no, voglio stesso. mettere questo elemento appunto perché così si contrappone la magia popolare, la magia della comunità, la magia la cui ricetta di questo latte della Madonna si passa invece da una donna a un'altra, non all'interno della stessa famiglia, non è una questione appunto di sangue, queste donne si scelgono e si passano la ricetta di questo rituale e dall'altra parte ci voglio mettere l'imprenditore solo, unico, da solo non puoi fare un rituale, da solo non puoi fare una festa, puoi essere ricco quanto ti pare, ma non ci riesci, che nella sua solitudine c'ha il suo mago che gli fa le carte, no? E mi sembrava di aver inventato una cosa, dicevo, ma dai, questa è un'idea. Poi, no, veramente, non solo becco i siti di astrologia finanziaria, no? Dove ti dicono oggi i pianeti sono allineati così, ma becco delle interviste. Un imprenditore della moda, guarda caso, il mio Riniero Mensa, quello che arriva col piano di rigenerazione industriale, un imprenditore della moda che dice, sì, io mi faccio fare i tarocchi tutte le settimane, per scegliere la nuova collezione. Autunno-inverno, anche per fare degli investimenti. D'altra parte, io sono un imprenditore della moda, mi occupo di simboli. Che problema c'è, no? A chiedere a uno di interpretarmi dei simboli? Questa frase praticamente l'ho messa in bocca a Mensa che dice: io produco carta, che problema c'è se interrogo le carte? No? Stessa cosa. Però ecco, cioè, questa pretesa di razionalità nel momento in cui invece si trova di fronte al fatto che l'economia non è una scienza esatta, per quanto ideologicamente cerchi di raccontarti questa storia, aveva ragione Guy Debord che diceva due economisti non possono guardarsi negli occhi senza mettersi a ridere. E, nel momento in cui l'economia quella promessa di certezza non la mantiene, beh, allora Dai, allora anche le carte. Allora, certo. No, liberiamoci dall'ansia di scegliere, di dover... con le carte. E però, appunto, le carte mi devono dare delle risposte. Quindi, ecco, mi sembrava che questa dimensione magica e l'esplorazione di questa dimensione magica potesse avere qualche elemento di interesse. Poi, quando me la sono ritrovata nella realtà e ho visto che davvero questo c'è, mi sono detto, beh dai, allora è ancora più interessante. E niente, direi più o meno, insomma, sì, c'erano anche altre cose, ma magari le riprendo dopo. Però ecco, adesso avrete capito come mai, Dario non è ancora arrivato alla fine, ma come mai c'è un'analogia tra la fabbrica di Mensaleri e la GKM. Che non è ancora arrivata alla fine nemmeno pure quello. Quindi... sì, io non l'ho ancora letto fino alla fine, così ho detto non posso fare spoiler nemmeno volendo, poi finché racconti tu va benissimo, insomma. Allora, io prima di lasciare la parola evidentemente a delle riflessioni anche di chi non ha letto il libro, ma sulla base del racconto mi prendo un attimo per dire questo, che per raccontare questo più che altro, la forza di questo libro, e riparto dall'esempio dei tarocchi, è che è tutto vero senza essere vero, nel senso che è tutto immaginario, il luogo fisico, eccetera, però è effettivamente così, cioè non c'è nulla di inventato. Credo fosse Ronald Reagan che ammetteva che prendeva le decisioni in base a una cartomante, ma questa è una cosa che torna tantissimo nel capitalismo. Più banalmente posso raccontare di tante esperienze fatte all'ex GKN in un tempo relativamente breve. Io ricordo una delle ultime trattative, quella in cui probabilmente avevano già deciso di chiuderci, era il 2019, arrivò un grande dirigente internazionale, era polacco, ma questo non è importante che fosse polacco, semplicemente per spiegare il contesto mentale con cui agiva, e fu tutta una trattativa allucinante, perché non ci avevano nemmeno portato un traduttore, lui parlava in inglese e si aspettavano che noi non capissimo nulla di inglese, invece abbiamo fatto tutta la trattativa un po' in inglese, io ero l'unico che la parlava, non traducendo proprio tutto, ci fu un momento in cui Matteo Moretti mi disse digli che lo rimettiamo in una scatola, lo mandiamo da dove è venuto, e quello non fu effettivamente tradotto esattamente così, però a un certo punto durante la trattativa in cui noi li spiegavamo, perché di fatto ci avevano già portato via il 30% dei volumi per ricattarci, quindi era già iniziata la delocalizzazione, che la fabbrica era in negativo, era in rosso per colpa loro che avevano deciso coscientemente di portare via i volumi, a un certo punto lui tira fuori il santino di San Giuseppe e dice: io baso le mie trattative su questo e posso trattare al massimo 5 punti perché ho 5 figli, quindi San Giuseppe più figli ci dettava, secondo lui, un rituale secondo cui noi potevamo chiedere al massimo 5 cose nella trattativa, e questo era un mega dirigente internazionale mandato dalla multinazionale. O nell'ultima fase, 2019, ci portano 80 macchine nuove, e il racconto del direttore di fronte agli operai su come mai arrivavano queste 80 macchine nuove, che poi si è scoperto erano macchine per affossarci, nel senso che erano macchine probabilmente che loro volevano ammortizzare nella chiusura, quindi ci portavano macchinari obsoleti per poi chiuderli lì con la fabbrica. Lui disse che questo, che avrebbe creato un sacco di posti di lavoro, era avvenuto perché una sera lui, bevendosi una birra con un altro dirigente tedesco, allungando la birra e brindando, lui gli aveva chiesto: ma tu avresti un po' di spazio per delle macchine? Sì, io ce l'ho. E quindi ci aveva tenuto in questo discorso di dicembre, di Natale, a spiegarci come questo brindisi fosse stato importante per la nostra vita, no? Cioè l'idea sempre che tu abbia sopra una sorta di sortilegio, di individuo, di qualcuno che con un gesto improvvisamente bonario, cattivo, perché ovviamente nel paternalismo c'è lo scapaccione come la carezza, può improvvisamente cambiare la tua vita, la vita delle tue famiglie, della tua comunità. Altre analogie, l'attuale GKN, così come Gigli, così come il cinema di fianco, sono stati costruiti su un luogo che non era abitato da nessuno, perché era il luogo paludoso di Campi Bisenzio, ma in verità aveva una storia, aveva dei luoghi, aveva degli acquitrini, aveva dei fiumi in cui, su cui le persone andavano a fare le loro cose. Quindi questa caratteristica del capitalismo, mi verrebbe a dire oggi come oggi, del capitalismo sionista poi in particolare, per cui c'è sempre una terra dove non abita nessuno, dove tu puoi arrivare e costruire qualcos'altro occupandola, anche questa torna molto nella storia dell'ex GKN, così come il fatto che poi quando questa fabbrica viene creata con un atto dall'alto benevolo, perché la fabbrica è ideale, perché viene creata dove non c'è nessuno che ci abita, quindi un luogo paludoso che viene trasformato in una fabbrica estremamente contemporanea e moderna, però poi la vita comunitaria ritrova i suoi riti, ritrova la sua stabilità, ritrova la sua storia. Per esempio, una delle cose che più attaccavano, e noi ci ogni volta era una cosa incredibile su come fosse fondamentale per loro attaccare qualsiasi momento comunitario. Per esempio la mensa. Noi avevamo 30 minuti di mensa, non era questa grossa cosa. Poi abbiamo scoperto che in realtà è una caratteristica del 70 in poi, dallo Statuto dei Lavoratori, questa idea che la mensa andava sempre portata a fine turno, abolita, era proprio quei 30 minuti, sembra che si concentrasse tutta la produzione possibile e immaginabile. Per cui una delle degli scontri che avevamo era contro la mensa a scorrimento, cioè l'idea che io, invece che fermare la macchina e andare su mensa tutti quanti insieme col turno, tu rimanevi alla macchina, mandavi la macchina e io andavo in mensa, poi tornavo e ti davo il cambio. E noi a spiegargli numeri alla mano che questo non apportava nulla di produttivo, perché comunque se io rimanevo solo alla macchina non mandavo la macchina, cioè comunque la macchina la dovevo rallentare, quindi non aveva nessun senso non fermare la macchina, anzi faceva anche male alla macchina. Eppure loro sulla mensa ci tenevano al fatto che non ci fosse. Perché? Perché la mensa era la chiacchiera, la mensa era l'unico momento in cui ci conoscevamo, perché all'inizio turno tu arrivi trafelato, timbri possibilmente all'ultimo secondo e vai alle macchine, quando te ne vai scappi. Noi avevamo il tempo tuta dentro l'orario di lavoro, una delle cose che avevamo ottenuto, quindi anche in realtà c'era un po' di comunità nel fatto che andavamo tutti a farci la doccia insieme. Ma la mensa era veramente qualcosa da eliminare, anche perché la mensa è diventato un luogo teatrale naturale, e anche qua torna questa cosa del teatro. Cioè noi avevamo un ragazzo, si fa per dire, ragazzi del GKN non ce ne sono, insomma, un ragazzo un po' cresciuto che aveva preso questo vizio che ha portato avanti per 15 anni, appunto questa ripetitività comunitaria dove però si crea anche routine e anche ribellione. Lui in pratica ogni volta che entrava un collega del turno successivo, perché essendo a scaglioni di 30 minuti, comunque ogni turno noi andavamo in mensa alle 11 e mezza, chi a mezzogiorno, chi a mezzogiorno e mezza, chi a luna, a seconda del turno, quando entrava un ragazzo, in particolare un po' un ragazzo di 50 anni, del turno successivo, iniziava a cantare una canzone. Cioè ogni volta che il Cioppe, si chiamava così, ovviamente tutti avevano un soprannome, come nel libro, quindi è tutto vero, entrava in mensa, il Galeotti iniziava a cantare a squarciagola il Badalo, che era una sorta di rito tribale a tutti gli effetti, che voleva dire cantare a squarciagola Badalo, cioè perché questo lo prendeva in giro, perché questo ragazzo, il Cioppe, ragazzo di 50 anni, diceva continuamente ma Badalo, Badalo, Badalo, no? Come alla Toscana. E quindi avete queste immagini che si possono trovare anche online su internet, di questo che entra in mensa, e per 12 anni ogni volta che entrava in mensa questo partiva a cantare a squarciagola il Badalo, rimodulandolo su quella che era la canzone del momento. Usciva Star Wars al cinema e per cui la cosa era ba ba ba ba Badalo, ba ba Badalo, ba Badalo, ma a squarciagola, ovviamente con tutto l'imbarazzo dei capi turno che dovevano portare in mensa magari il visitatore del momento della multinazionale, eccetera. E per cui avevano fatto di tutto per eliminare la mensa ed eliminare tutti i riti collegati alla mensa. E la simbologia del teatro poi ritorna. Nel 2018, quando arriva Melrose, noi facciamo una mossa apparentemente poco comprensibile, creiamo un simbolo del collettivo di fabbrica. Questo simbolo, che oggi credo sia sulle magliette di mezza Italia militante quantomeno, è stata creata quando arriva la multinazionale che ci deve chiudere. Ed è qualcosa che lì per lì pochi capivano, e in effetti è clamoroso come in realtà un semplice simbolo, un po' massonico a vederlo, Sì. un po' una Erika massoneria, la Galissa è un ci po' una troverà. massoneria dal basso, insomma. E in effetti serviva a riconoscersi in fabbrica per dire, siccome loro stanno creando una gerarchia di capiturno, team leader, eccetera, chi non sta con loro porta questo simbolo. Infatti, in realtà non pensavamo di fare le magliette, i primi simboli vengono messi su uno scaldacollo che ci mettevamo in turno, e quindi serviva semplicemente a riconoscersi. Quindi un controsimbolo dal basso. Anche questo non. Cioè, la forza che aveva questo nella loro simbologia della multinazionale, con tutti i loro team leader dall'alto, lì per lì non viene compresa. In realtà è una cosa che ci è stata molto utile poi nelle cose successive. E infine l'arrivo del teatro, però non è il teatro padronale in questo caso, è il teatro dal basso, usiamo questo termine, di una compagnia che viene esattamente a trasformare i fantasmi in qualcosa che viene rappresentato, cioè non lasciare che le storie muoiano, perché una delle caratteristiche che, come dire, che noi non abbiamo, che rischiamo di perdere, è che se qualcuno non racconta la nostra storia, o se noi non siamo più in grado di raccontarci, noi stessi perdiamo la nostra storia e di conseguenza non siamo nemmeno capaci poi di trarne altre generalizzazioni. Cioè questo processo, appunto, il partire dal gruppo che si riunisce per ragioni spirituali, da cui poi nasce la cellula anarchica o, come dire, anticapitalista, non è casuale, perché fondamentalmente se tu non conosci la tua storia, anche nelle forme più ibride, grezze, non elaborate, non puoi arrivare ad altre generalizzazioni. Faccio un ultimo esempio e poi mi chiedo se volete invece fare domande. Il fatto che la lotta ex GKN sia rimasta viva e che quindi abbia ereditato tutto il periodo GKN, ma anche il periodo ex Fiat, per esempio, ci ha riportato anche ragionamenti storici più alti che noi rischiavamo di perdere. Quando facciamo un incontro con Barbero, e io era a Torino, dico, vabbè, mi scuso con le compagne e compagni che vengono a Fiat di Torino, perché noi siamo la Fiat che non ha scioperato nell'80, il gruppo dei vecchi anziani Fiat mi rincorre, quasi letteralmente, quasi materialmente, e mi porta una serie di articoli dove, ad esempio, si spiega che nell'80 a Firenze si criticava la lotta di Torino per essere ad oltranza e non lo sciopero articolato, e quello avrebbe permesso a un certo punto al padrone, cioè agli Agnelli, di riprendere il controllo della fabbrica, mentre uno sciopero articolato più ragionato avrebbe permesso di durare più nel tempo, che è un punto di vista assolutamente alto nell'elaborazione teorica operaia che io non conoscevo e che mi ha permesso di uscire da un'idea fatalistica per cui nell'80 potevamo solo perdere, forse no, si poteva fare qualcosa di diverso. E questo elemento storico arriva perché c'è una comunità ancora viva, che è quindi in grado di raccontare la propria storia. Quindi questo scontro tra il capitale dall'alto, gli individui, i loro sortilegi, la loro irrazionalità, e una comunità che a volte anche in maniera teatrale e con mille strumenti, il simbolo, i nomignoli, i soprannomi, le storie, si tramandano a memoria, è veramente fondamentale. E non a caso, credo, i luoghi che sono stati più vicini alla lotta ex GKN sono luoghi di natura comunitaria. Cioè, la verità è che noi avremmo tanto voluto che le realtà più vicine a questa lotta fossero quelle più classicamente organizzate, i sindacati di cui facciamo parte. In realtà ogni volta ci ritroviamo alla comunità dell'isolotto, alla comunità delle piagge, nei circoli arci, nel gruppo dei condomini etici di Brescia. Cioè, ci troviamo a discutere con luoghi comunitari, appunto, con tutte le loro caratteristiche e differenze anche rispetto a noi. E anche questo forse ci dice qualcosa sul tipo di mobilitazione e su come la lotta di classe, veramente più classicamente, marxianamente intesa, in realtà si debba legare a storie di natura comunitaria, fondamentalmente. La direi così, la comunità non è per forza classe. Può essere una comunità interclassista, una comunità eterogenea, è difficile che la classe vinca se non è comunità. Questo è un po' quello che almeno la nostra storia ci ha un po' insegnato, ecco. detto questo, non so se qualcuno di voi ha già letto il libro o ha letto le cose. Ah, c'è una cosa del libro. Si prende una gravissima responsabilità storica questo libro. Indica il miglior album italiano nel 1994, che è uno degli anni in cui sono usciti una quantità di album devastanti, sia in Italia che penso che 99 Posse, Banda Bassotti, cioè per dirne alcuni, cioè il 94, non devi vedere, è un anno musicalmente devastante e quindi tanta, cioè, responsabilità storica importante questa, insomma. Sì, in realtà devo dire che non è il narratore onnisciente che lo dice, è un personaggio. Vabbè, quindi è un punto di vista, diciamo, è un punto di vista di una persona, di un gruppo di persone, di una comunità. C'è effettivamente una comunità che abita un luogo abbandonato a Mensaleri, che sì, ascolta un certo genere di musica e quindi non lo diciamo. No. Troverete quello che secondo loro è il miglior album italiano per distacco.